cosa che saranno... però stavo giusto pensando adesso, ma guarda che stiloso che mi sei, Pasquini. Hai passano visto? I mesi, passano i cocci e tu sempre quel gran bel gnocco, com'è che si diceva? Si diceva così, no, non mi ricordo, giuro che la gnoccanza io ormai coxica. Sono abituato a fare cocci tipo in bagno da solo, bello come il sole. Beh, il bagno è un ottimo ambiente per il concettuale, no? E poi oppure nelle aule dell'Accademia Albertina anche, ho fatto un intero coxo mentre ero a Bangkok, mentre ero a Shanghai, in realtà avevo un coxo registrato a Torino la settimana prima con questa Suzuki Haru. Quindi che suonava. Da Shanghai hai trasmesso il coxo di Torino mentre registravi il coxo esatto. Ed eri, ti prego dimmi di sì, eri stavi aspettando di partire in aereo. Certo, assolutamente. Quindi ci sono anche tutte queste belle, ma ci sono state, ovviamente si vede come seguo le puntate del coxo quando non ci sono. Ho messo delle registrazioni fantastiche con queste vocine di giovani cantanti cinesi che suonavano live a Shuju, in mezzo a sto giardino. Suonavano queste musiche tradizionali, ma comunque ne ho una anche oggi da farvi ascoltare. Ottimo, perché avremo bisogno di tanta musica, visto la ricchezza dei nostri contenuti. In realtà un po' di contenuti li abbiamo. Ah, beh, questo è in dubbio. Un po', come al solito. Finché c'è il coxo c'è speranza di contenuto. No, più che altro in realtà saranno... Adesso l'ultima volta che sei venuta, cos'era? 4 puntate fa. Sì. Siamo un po' sobri di contenuti per quel che riguarda il teatro, perché io ho parlato sempre e solo di arte contemporanea, naturalmente. Avrei fatto due coxoni così agli ascoltatori. io invece sono un po' pregna di performing arts più che teatro. Ah, fantastico. Però sai, questi confini un po'. Però più che altro lo cerco e lo faccio, ma non ne vengo a parlare in radio. Ah, ecco. No, dai, comunque qualcosa ci aiuterà a dare una nuance di teatro a questa 224esima puntata. E intanto, per cominciare, io metterei su una musichina. Sì, se vuoi che la... La vuoi tu, la voglio io? No, Che musichina c'hai tu? Mettila tu. Ah no, io c'ho subito Suzuki Haru che canta, perché lei fa questo programma, lei ha una radio sua personale su l'ICFM, dove così parla con i suoi amici in cinese naturalmente, poi dopo ride e poi ogni ride tanto importante. Però sì, ogni tanto fa un po' di karaoke, ogni tanto invece suona con non facciamo anche noi il karaoke? Ah no, perché a te non piace. Ma in realtà se lo facciamo bene si può fare. Allora, coxo spaziale è cominciato ora su www.radiofisicofugico.it e questo è il primo brano anche su Facebook, sì. Vai. E questo è il primo brano della 224esima puntata di Coxo Spaziale. Yeah. Think about downtown. Com'è senti che canto sopra le canzoni. Com'è, eh? Com'è che gracchia il tuo microfono? Non lo so. Ah, forse è la mia cuffia. No, non cantare sopra le canzoni, che non si può. No, ti volevo dire che c'è una novità. Abbiamo un, come si dice? Come uno si scoop. No, come si chiamano quelli che parlano da lontano per te? Un inviato. Abbiamo, un cox inviato, abbiamo, dopo i cox speciali. Esatto, abbiamo un inviato. Salutiamo i nostri cari Lolli, e com'è che si chiamava quell'altro che era tanto simpatico? Quello che faceva il cinese, sì, certo, del cane cinese. Perché mi hai preso? E poi salutiamo anche Marco, no, che Lolli è stato ogni tanto il nostro lo esperto. Metto su. Anche Luca Zino. Pappalardo. Sì, Zino. Abbiamo Zino. Avuto segno qua, abbiamo avuto quattro. Ecco un aereo. Bellissimo. Che ci può dare il là per questo inviato che arriva da dove? Da Basilea. Perché tu lo sai che a Basilea c'è la fiera. C'è Art Basel che ha inaugurato ieri e dunque ho chiesto alla mia carissima amica Maria Teresa Roberto, che è una storica dell'arte nonché curatrice incredibile, di mandarmi un WhatsApp con una registrazione di quello che è stato per ma lei. Ma che meraviglia! Quindi si continua con le registrazioni e io pensando che lei... Cioè me l'ha mandato tipo 20 minuti fa, è stata che, bravissima. Che tempismo coxico megagalattico. Adesso spero solo che si senta. E comunque ascoltiamola perché ci racconta appunto, cioè questa è la fiera d'arte più importante che c'è al mondo oggi, inaugurata sì, ieri. Non mi guardare che io ho tutt'altri sottotesti molto che sto bene. Trattenendomi dal si dire al microfono. Okay. No, ma ti puoi sfogare, dai, non ti preoccupare. E niente, allora sentiamo com'è andata, se c'è ancora qualcosa di interessante. Ma il gingolino in ce l'hai messo? Cavoli, il gingolino, aspetta un attimo che guarda adesso che mi hai detto gingolino. Sì. Hai ragione. Ce l'hai al volo tu? Ce l'ho al volo io. Sei lì. Arte contemporanea. Anche quest'anno è arrivato il momento di Art Basel, l'appuntamento più importante nel mondo per l'arte contemporanea, per chi la colleziona, per chi la mette nei suoi musei, per chi la restaura e naturalmente per chi vorrebbe fare una qualunque tra queste cose, ma si limita invece a guardare e desiderare. Entrando ad Art Basel, come sempre, ci sono i galleristi, diciamo così, storici che portano due o tre Picasso del periodo rosa, qualche Gonchile e così via, e poi si sale su al piano secondo e si trovano gli artisti contemporanei, tutto quello che potete desiderare. Quest'anno pochissima fotografia, molta pittura e qualche video, ma soprattutto tantissima pittura. Sono così tante le proposte che alla fine si rimane veramente un po' disorientati, ma infine ad accoglierci e a darci dei punti di riferimento sicuri c'è Unlimited, la sezione che con pochi limiti sia per quanto riguarda le dimensioni, il budget, ma soprattutto anche l'impegno degli artisti, accoglie una sessantina appunto di artisti di tutte le età, ci sono addirittura alcune nuove rivelazioni di artisti ottantenni e persino un artista che ha 105 anni e che espone qui una scultura molto interessante, insomma artisti di tutte le generazioni che affrontano con linguaggi diversi i temi cruciali del mondo in cui viviamo oggi. E voglio subito partire raccontandovi l'opera di quello che è probabilmente uno dei più importanti artisti che proprio in quest'anno sta emergendo all'attenzione di tutti. Si chiama Michael Rakowitz, è un americano del 73 di origine irachena e quest'anno ad esempio ha vinto il concorso londinese per il quarto plinto e quindi installerà una sua scultura proprio in vicino a Nelson a Trafalgar Square, e qui a Basilea presenta un lavoro straordinario, un lavoro che parte da Nimrud, cioè quel sito archeologico che è stato qualche anno fa definitivamente distrutto dall'ISIS, e le cose che non erano lì stanno tutte in giro nei più grandi musei archeologici del mondo, e Rakovic le ha ricostruite sulla parete usando delle confezioni di tè o di datteri o di altri cibi che arrivano con il loro carico di esotismo dall'Iraq e che finiscono nei supermercati di tutto il mondo, e ha preso queste confezioni, le ha dispiegate, le ha usate come dei tasselli colorati per ricostruire i profili di re assiri, di guerrieri, di regine. È un lavoro bellissimo perché parla appunto della storia dell'Iraq. Nulla di tutto ciò che Rakovic riproduce sta più lì in quel territorio, le opere stanno o nei musei più importanti del mondo oppure sono ormai ridotte in polvere, e in più c'è il fatto che c'è il colore. In origine tutte queste opere erano colorate, vivacissime, nel corso dei secoli e dei millenni hanno perso il loro colore, ma Rakovic quindi ce le restituisce con dei materiali artificiali, ma riproponendo tutta la forza del colore. Un altro lavoro bellissimo è quello di un artista ghanese che si chiama Ibrahim Mahama, che è dell'87 e che assieme ai suoi giovani collaboratori ha raccolto centinaia di quelle piccole scatole che Illustrascarpe utilizzano per metterci dentro le spazzole e i materiali con cui lucidare le scarpe dei signori che escono dagli alberghi di lusso, e in parte queste scatole le ha poi anche ricostruite e ha creato un grande muro in cui c'è la storia di tutti questi ragazzi, ci sono i loro ricordi, c'è insieme, diciamo così, il muro del colonialismo, ma anche il senso che gli oggetti intimi, gli oggetti ai quali diamo un'importanza, possiamo in qualche modo riscattarli e mantengono una memoria. E voglio finire con un artista che piace molto anche a Stefano Pasquini, un video che non avevo mai visto di Francis Ellis. Francis Ellis è un artista belga che usa il video per raccontare, analizzare e provare anche a smontare certe dinamiche della cultura e della società contemporanea. Questo è un video che lui ha realizzato nel corso di 10 anni, tornando alla fine di ogni estate in Messico, quando alla fine della stagione estiva e quindi dopo mesi e mesi di siccità, quella parte di Messico diventa un deserto battuto dal vento, e lui ogni anno va là e cerca di andare incontro ai mulinelli di vento che si alzano, e in due occasioni, così ci racconta questo video, è riuscito addirittura a entrare proprio nel fulcro centrale di una tromba d'aria, e portando con sé, proprio schiacciata davanti alla sua faccia, la sua piccola videocamera, e quindi noi con lui corriamo e andiamo a cercare attraverso queste pianure desolate il gorgo di vento, e alla fine ci entriamo e ci accechiamo, la polvere ci acceca, ed è veramente un'esperienza straordinaria che ci toglie il fiato, e che dopo aver visto tante opere, forse persino troppe, negli stand di tutte le gallerie più importanti del mondo, questa esperienza di annullamento e di cecità ci sembra all'improvviso qualcosa di salvifico. Questo non l'avevi ancora sentito mai, ma che meraviglia! L'hai fatto in bagno con i tuoi figli e la chitarrina. No, questa è Suzuki. Adesso non ti sento più. Questa è Suzuki Haru. Suzuki Haru che ti ha fatto questo regalo, ci sono anch'io alla fine, esatto. Di tanto in tanto nel coxo. Esattamente, fra l'altro bisogna ricordarsi di copiarli dentro al... Sì, al, e lo faremo stasera. Oggi computer siamo, dello studio. Esatto, molto bene. Ti pensi a questa ciclicità coxica che ha fatto sì che l'altro anno ho fatto io un anno e mezzo da solo, adesso ti stai trovando tu a fare un anno e mezzo da solo? È abbastanza coxico, no? Sì, indubbiamente. Quindi tra 7 mesi dovremmo riprendere a stare a farlo insieme. Chissà. Magari sarebbe, da Torino. Sarebbe bello, ma da Torino non credo, visto che... No, portiamo anche Radio Città Fujiko, ovviamente. Sarebbe bello anche quello, portare Radio Città Fujiko a Torino. Comunque, complimentonissime alla nostra prima inviata, ma che cosa ci manda prossimamente? Maria Teresa Roberto ha detto che domani andava a vedere una mostra a Ginevra, però non mi ricordo cosa, e gli ho detto sì, vai. E così. Passo, io c'ho l'orologio sopra che fa le 20:25. Il mio fa le 23. Quello del computer fa le 23 e quello lì rosso, che mi sembra il più perentorio di tutti, che c'è davanti anche tu, fa le 22. A quale facciamo fede? Cioè, da te fa le 22, da me fa le 24 da questa parte. Cioè, non sono neanche sicuro. Dice anche che ci sono 33 gradi. Da te quanti ce ne sono? Da me 32. Ah, però si sta meglio. C'è un si ambientino sta meglio più... dalla mia parte. Esatto. Va bene. Allora io cosa faccio? No, che ho dato degli appuntamenti telefonici. È che non c'è GIF. Allora, secondo me, quello che puoi fare tu è... Aspetta, è quello che... Ah no, sai cos'è che possiamo fare? Perché tu devi fare una telefonica, mentre invece io devo farvi sentire Suzuki Haru come cantava oggi. Ah, perfetto! Siccome... Quindi intanto mettiamo qualche minutino di Azuki Haru. Suzuki Haru. Suzuki, come la moto. Non ti sbagliare. È il cognome Suzuki. Suzuki è il cognome, infatti io la chiamavo Haru Suzuki in tutto un coxo spaziale e lei mi ha sgridato perché in giapponese si dice Suzuki Haru. Ho capito. Coxo spaziale. Anche questo è nuovo. Questo tu non l'avevi mai sentito, forse sì, questo l'avevi sentito. Sbaglio, e niente, ascoltiamola. Oggi così, siccome lei è dalle 5 alle 6 di pomeriggio, che in realtà in Cina sono dalle 11 a mezzanotte, fa un programma radiofonico privato per i suoi fans e ne ha 500, anzi 501 perché io mi sono aggiunto. C'era il triplo del coxo. Esatto. e allora lei così parla e ogni tanto canta con l'ukulele. Ma e perché io... non facciamo anche noi un programma del genere? Sarebbe bello. Però non ho capito cosa è successo al mixer perché non è contento. E detto questo, lei cosa fa? Ogni tanto fa queste cantatine e io ogni tanto così di soppiatto la registro. Oggi l'ho registrata e ve la faccio sentire. Mi ricorda tanto Lolli. Ti ricorda un po' Lolli. Boku ga konban no kare wo nokosatsu tabeta nara yokatta no kana. Kimi wa hitoku kawo shikamete mo tabenakute iyo tte itan dake na. La la la la la la la la la la la la la la. 这个歌蛮早的啦。 晚上好呀， 木念。 もしも 僕が いじめられたって殴り返せるような人だったらな君も今より少しくらいは笑うようになるかもしれないからもしも僕が一人きりでさ 君に迷惑もかけずにいられたならでもさそれじゃさ君を知らんまま生きてくことになったかもしれないからもしも僕が嘘つきならこんな 僕のことを叱ってくれたかな。なあ、たくさんのもしも話が僕の 해안이 가우장돼 콘다요 나네 모나이 히비카라 히비카 하이제소카라 자꾸 쌓노 모시모 가모레다시데 이콘다 아 이마메 워스문데 이미와호사이데 아루키다시다요 키미노 코에모 키미노 에카오모 미래나이 마마다케도 소레모 이카모 이얀 나몬다케사 아참마나카카라 게시데쿠데 잘라나 요카 아아 모시모 보코가 솔직히 모노나라 콩나 사이코다테 신지즈게우다카나 키토 키미와 와라테쿠레루요나 민나 와카테르츠모리난다 난도모 키미니 이오토시카게도 도도쿠 하즈나쿠데 오카시나테 키미노 초코니 sei sveglio? Cosa succede? Stava ridendo. Stava ridendo, È carina che parla anche. Sì. No, c'è un che di molto coxico, devo dirti. È abbastanza coxica lei, Non capisco perché vai viene, deve essere il mixer che non fa fare il fade sì, out. No, no, infatti no. Se vuoi te lo fade io. Ma perché cosa dobbiamo fare? Lo abbasso? Ma abbassiamolo un pochino, io ti alzo la musica di sottofondo. Ah, ecco, fai così. Perché con questa cosa delle ore varie, io penso che sia arrivato l'oro per quella cosa che sai tu e che chissà quanto tempo è che non si faceva col jingle e tutto. Col jingle e tutto, lo vuoi? Aspetta un po'. Perché non si sente più neanche la musica? Ah no, c'è. Ce l'hai? Sì, vado? Vai. L'angolo della menzione. Si sente un po' malino. Sì, po', anch'io sento un po' di qua e un po' di là, però. Rialzami del tutto il mio. È rialzato del tutto. Ah, ok. Allora, tutto è alzato del tutto. È tutto alzato del tutto, ma. Ecco, adesso un po' meglio. Adesso ho fatto così su. Vabbè. Ma perché sennò magari vengo io a fare un po' così. Perché sai com'è che io aggiusto le robe elettroniche? Non lo sapevo. Ah. Devi passare a casa mia. Allora, e comunque passa di qua dal mixer dopo questo che è il grandiosissimo momento delle menzioni. Anche se la musica di sottofondo non aiuta molto, ok. Andata in cupaggine. È andato un po' in cupaggine. Comunque, la tiro un po' giù. Cominciamo con la prima menzione, la dici tu? Vado io. Ok. Adesso, ma proprio adesso, cioè nel senso tra mezz'oretta e domani, sabato 16, alle ore 21, c'è Chi ama il proprio rapitore. Il nuovissimo Spazio Altrove ospita una performance teatrale sulle dipendenze. La regia è di Valentina Ruocco e noi abbiamo in linea il primo ospite telefonico della 224esima puntata di Coxo Spaziale che si chiama Vincenzo Corigliano ed è il padrone di casa di Spazio Altrove. Ciao Vincenzo! Ciao! Benvenuto al Coxo! Ciao a tutti. Ti presento Stefano. Ciao ascoltatori e benvenuti anche a voi a casa mia, a Spazio Altrove. Sei lì, come sono i preparativi? Sono lì, loro fermentano, hanno fatto delle prove pessime per cui la performance andrà benissimo. Abbiamo posizionato le luci e siamo pronti, alle 21 debuttano i ragazzi anche domani. Ed è un, come dicevi bene tu, uno spettacolo sulle dipendenze. Si parte dalla sindrome di Stoccolma per avere l'occasione di parlare poi delle varie dipendenze, dall'amore al gioco, alla droga. È che di questi tempi è estremamente attuale. È estremamente attuale, sai, noi siamo sempre sul pezzo. Ma raccontaci un pochino questo spazio, come nasce, che è nuovissimo. Allora, nasce. È nuovissimo, è inaugurato. Dov'è? Gennaio, intanto, dov'è? È un'associazione culturale, è in Viale Pepoli 62A. Per chi non lo sapesse, Viale Pepoli è tra Porta Saragozza e Porta Sant'Isaia. Quindi proprio sui viali. Sbagliare. È proprio sui viali, però a differenza non è proprio sul viale, perché c'è un sentierino molto carino che ti porta, e ciò rende l'atmosfera molto più riservata. Com'è bucolico questo andito? È bucolico, benissimo, hai detto la parola giusta, anche perché io l'angolino l'ho tutto fatto fiorire, le piante, le cose. E comunque, dai. E quindi ci apriamo al teatro, ma... Ci apriamo al teatro, ma non solo. Di cosa vi occupate? Perché Spazio Altrove si occupa di dare la possibilità a chiunque di ricreare nello spazio il proprio altrove. Tant'è che ci diversifichiamo e ospitiamo dei corsi di yoga, dei corsi di meditazione. Ci sono dei bravissimi danzatori che vengono a provare. Tu la conosci, è una molto molto molto molto brava. Ospitiamo delle performance, delle mostre d'arte, di pittura, fotografia, varie ed eventuali. E nell'occasione ti ricordo che in questo periodo ogni lunedì c'è anche il corso di lettura tenuto da Anna Amadori, che sarà un appuntamento fisso per ogni lunedì fino al 7 di luglio. E poi dal primo martedì di luglio, per 4 appuntamenti, perché dopo farà caldo, quindi tutto comincerà a settembre, ci saranno Libri Altrove, che saranno una sorta di aperitivo con presentazione di libri all'interno, con una lettura, un reading dei vari pezzi del libro che viene presentato. Ma che meraviglia, che versatilità! No, assolutamente, hai proprio aperto questo ventaglio di opportunità che solo altrove si possono sperimentare. Ci ho provato anch'io. E adesso chissà se Stefanuccio ha pronto il contro jingle della menzione, perché, e ahi noi, il nostro tempo è scaduto, ma anzi, meglio per te che sarai tutto in preda a preparativi. Sì, no, devo andare, qua stanno cominciando ad arrivare i primi spettatori. E ci vediamo domani, che vengo a vedermi la replica in questo, brava, così vengo a vedere anche lo spazio. Chissà, ecco, che non incontri, brava, anche i danzatori. Te li farei conoscere volentieri, sono molto bravi. So che tu ti occupi anche di questo, e allora perché no? Grazie mille, Vincenzo, è stato un piacere. Un e come si dice, tanta coxa, perché quell'altra parola non si può dire in fascia protetta, credo. Ma no, ah, non si può dire merda in radio. Non dirlo io, merda, lo posso dire io. Ciao. Vi faccio tanto, grazie a te. Ciao. A presto. Ciao. Ma ce l'avevi, ma che meraviglia. Adesso abbiamo una lunga infilata di menzioni artistiche. Veramente. Che ci fa una maratona a te. Che cominciano da oggi con Low. Dilla tu che ce l'hai. Va bene, poi tu, perché poi io mi devo cercare. Vabbè, ti metti tu da solo il. Dopo mi metto tutto su da solo. Inaugura oggi Low, mostra di Paolo Bufalini con il testo critico di Davide Dappiave. Adiacenze ospita una serie di installazioni e sculture in cui forme e significati si stratificano l'uno sull'altro, generando unità dense, complesse ed autonome. Ah, ho già finito? Io ho finito. Scusa, mi ero un attimo distratto a leggere le menzioni che dovevo fare io, e dunque mancava questo. Meglio tardi che mai. Sì, vai adesso, dai 3 minuti per leggerle tutte 8. Tocca a me? Dal 18 al 20... No, è un casino qua. Qua è un casino. Dal 18 al 23 giugno, Open Tour, eventi attorno all'Accademia di Belle Arti con un programma giornaliero pienissimo. E io non so neanche cosa fare, perché è veramente pienissimo. Cioè, ci sono un miliardo di cose da fare. No, ma è così pieno che per non parlarne tipo parte in lunedì inadeguata. In Accademia con Jeremy Fisher, poi Gabs. Successo nel mercato, la scatola nera, martedì Aula Magna, arma per l'arte. No, non ce la posso fare. Troverete tutto su www.coxospaziale.blogspot.com. E però all'interno di tutto questo devo menzionarne almeno una, che è quella che inaugura invece dove è andato, dove è andato, dove è andato. Ma è già finito? No, mica finito. Il 20 giugno Aerosol scambio a cura di Sergio Avveduti, Sergio Breviario e Stefano Scheda, che sono tutti i nostri amici, per cui non potevamo menzionarla. Ma questa Dar Forum l'accademia? In via Ber- no, è una mostra di ma studenti dell'Accademia. Allora dovevi mettere lo stacchetto per separare. Ma sì, è sempre parte del Grand Tour, comunque tieni, va. Te lo metto qua in mezzo. Questa è ad Art Forum in via Bersaglieri 5 e www.artforum.it. Mentre invece il super mostrone, super super mostrone inaugura il giorno dopo, giovedì 21 giugno, e questo è al Mambo. La super mostra si intitola, non l'ho già persa, si intitola That's It, sull'ultima generazione di artisti in Italia e a 1,80 m dal confine. Il Mambo apre la programmazione espositiva con il del suo spazio principale, la Sala delle Ciminiere, sotto la direzione artistica di Lorenzo Balbi, con That's It, sull'ultima generazione di artisti in Italia e a 1,80 m dal confine. Una mostra che presenta i lavori di 56 tra artisti e collettivi nati dal 1980 in avanti. Tu sei nata dal 1980 in avanti? No. Io neanche, per cui non ci siamo. Esplorando differenti media e linguaggi. La lista degli artisti in mostra è enorme, manca... Posso dirvi chi manca? No, è meglio non dire chi manca. Meglio. Comunque è una mostra che è assolutamente da non mancare. Saluto Irene Fenara e anche Lia Cecchini, che sono le due che saluto così, perché no, mi fa molto piacere che ci sono un sacco di donne in questa mostra. Per... Anche a me, anche se sono troppo giovani. Sono un po' giovanotte per tutti, però va bene lo stesso, e io credo che sarà la mostra più interessante di quest'anno in assoluto, proprio che c'è a Bologna. E per dimostrarti quanto sono fiera di te e delle tue prodezze acrobatiche come menzionatore, ti metto una canzoncina per riprendere un attimo fiato. Questo al telefono è più fro. Ma perché non parte? Gifo mi sta scrivendo delle... Questo qua è William Farrell, credo. Era perché sai che mi è venuto in mente Paolo Granata, che salutiamo tantissimo. Ma salutiamo perché lui aveva fatto questo video all'Accademia Albertina, dove tutta l'Accademia ballava. Io non c'ero. Ma perché che è un artista pure lui? No, lui è un professore di mass media, e soltanto che dopo poi è andato a vivere a Toronto, e adesso ha la cattedra che era di Marshall McLuhan. Oh, che carino! Hai detto niente. Cioè, della serie io sono il media è Paolo Granata, non è più il messaggio. Allora. Beato te che lo conoscevi, fortunati noi che siamo stati messi a parte di questo aneddoto e che possiamo continuare con... Devo fare il jingle. Perché abbiamo l'ultimissima. stratosferica menzione della 224esima puntata di Corco. Io ne ho ancora. Ma intanto vado io, allora, se permetti. Vai tu. No, perché questa qui ha da essere in coda, perché quanto stiamo per annunciare e dialogare con l'ospite, il secondo ospite telefonico della puntata, avrà luogo prima del 16 luglio, quindi può essere anche un po' più in là. E sono incontri, workshop ed altre altre attività aperte alla cittadinanza che preparano il terreno per il festival all'improvviso, proposto da Ecodanza per il quartiere Savena, ed avrà luogo dal 16 al 23 luglio. E noi abbiamo in linea Roberta Zerbini, fondatrice della compagnia e anche strenua sostenitrice e lavoratrice per la realizzazione di questo festival. Ci sei, Roberta? Sì, ci sono. Eccomi qua. Benvenuta al COXO. Ciao ragazzi. Allora, cosa ci racconti di... perché ci siamo già visti qui qualche tempo fa in diretta, quindi tu ormai sei una coxatrice professionista ormai. Infatti, sì. E sai benissimo, cioè, come ti trovi dall'altra parte della menzione? No, mi trovo molto bene, assolutamente, sono molto felice di chiacchierare con voi ogni tanto, quindi... Come sei vestita? Sono pronta. Scherzo, una camicetta blu molto discreta, sono ancora in ufficio a finire la promozione del festival. Brava, così ti vogliamo, lavoratrice. Sì, assolutamente. Allora, a che punto siamo arrivati? Allora, siamo arrivati che ormai è pronto, siamo a posto, abbiamo organizzato direi tutto, e le primissime cose appunto che diciamo si svolgono per preparare il festival sono i laboratori, le masterclass e questo super progetto speciale Savena Maze, che ha la direzione e ha la progettazione, guarda caso, di Fedra Boscaro. Ecco, ma è fondamentale, conflitto, ma è fondamentale per il festival. Roberta, non me lo dovevi fa. Sì, no, è fondamentale, quindi bisogna assolutamente sostenerlo questo progetto speciale, perché sta proprio alla base del festival. Il festival è arte e cultura nella periferia urbana della città, e niente, questo progetto ha bisogno di condomini e condomini disponibili a essere intervistati, a essere indagati, e quindi no, bisogna assolutamente dirlo, perché dovrà portare poi nella giornata del festival un lavoro fantastico. Guarda, solo a ricordarmelo e immaginare quei condomini fantastici che ci sono lì, sono da Cavazzoni, via Milano, mi lacrimano gli occhi, sì, quasi, sono d'accordo. Mi commuovo. Poi ho conosciuto anche la signora Norma, che forse ci dà una mano, però vabbè, di queste cose poi parleremo in altro momento. E tutto il festival sarà così, cioè scoprire questi luoghi di questo quartiere, che secondo me è molto particolare, perché sono tutti luoghi quasi micro zone autoctone, per cui ognuna ha la sua identità, e in questi luoghi noi andremo a fare o improvvisazioni o performance. Ma tornando alla formazione, sì, ci saranno delle masterclass, che per le quali è fondamentale iscriversi ora, perché non ci saranno tanti posti, e un altro laboratorio gratuito, come è appunto il progetto Savena Maze, un altro laboratorio gratuito per la cittadinanza con senza esperienza di movimento, di danza, non è importante, è solo così curiosità su quello che può essere il movimento contemporaneo, tenuto dall'ospite internazionale del festival, che è Juan Matilla Terrones, che viene da Siviglia. Io ho conosciuto la bellezza di 15 anni fa, quindi sono felicissima di poterlo ospitare, e sarà dal 20 al 22, gratuito, senza esperienza, senza età, anzi più ci sono incontri di generazioni meglio è, e bisogna iscriversi entro questo mese. Perfetto, quindi facciamo così. Siccome le cose sono tante, e stare qui a elencarne alcune o prediligerne alcune non è il caso, già mi sento troppo trattamento speciale. Rimandiamo tutti a tenere sott'occhio il sito, che Festival all'improvviso, lo si googola e si trova, giusto? Sì, si trova nei social, facebook.com/festivalallimprovviso. E comunque da domani su www.coxospaziale.blogspot.com il link per andare, che vi rimanda al dettaglio dettaglio di queste offerte. Esatto. Roberta. Oppure c'è il sito della compagnia dove c'è esattamente proprio tutto, minuto per minuto, quello che succede nel festival, che è www.ecodanza.it. Con la K. Con la K. Con la K. Mi raccomando. Non è solo stilosa, ma è determinante in questo contesto. Assolutamente. Roberta, grazie mille. E ti lasio di nuovo in ufficio. Mi dispiace dire, insomma, continua così. Forza, siamo strenui fino alla fine e ce la faremo. Ce la faremo. Grazie. Un abbraccio, ragazzi. Grazie, buon lavoro. Ciao. Grazie per essere stato con lavoro. Noi. Hai visto? Hai visto? Hai visto mai? Hai visto? Mi scrive Maria Letizia Paiato, che è a Basilea anche a lei. Chiamami che ti parlo del party del Vitra, la cosa più figa di Basel. Ma adesso? E io le ho detto, cara mia, noi abbiamo uno schedule intensissimo, infatti devo finire di dire anche io delle menzioni che però non le trovo più. Vabbè, certo, perché sono su Facebook. Allora, il 22 giugno, inaugurazione di Madame Gérard, The Summer Show, che sarebbe la settima edizione di The Summer Show, l'evento espositivo organizzato dalla Scuola di Alta Formazione di Fondazione Modena Fotografia, che presenta una panoramica inedita sulle nuove tendenze e direzioni del linguaggio dell'immagine contemporanea. Questo è alla Fondazione Fotografia Modena, Mata, ex Manifattura Tabacchi. Questa volta invece è a Modena e di nuovo, come al solito, troverete tutto su www.coxospaziale.blogspot.com. Questa settimana abbiamo la possibilità di vedere un sacco di arte giovane, un sacco di arte nuova, per cui insomma andate, io vado, cioè io mi faccio un gran giro in bicicletta a vedere tutte le mostre dell'Accademia il 20 e ma poi... posso venire anch'io in bicicletta con te? Puoi venire anche tu in bicicletta con me, e aspetta che io volevo giusto assicurarmi di aver finito le menzioni, perché qua ci sono due file, uno più lungo dell'altro. Ok, c'è tutto, aspetta che ti devo far sentire anche questa cosa qua, che invece è forse sì, sì. Salve a tutti, sono Pino Boresta e sto ascoltando Coxo Spaziale. Pino Boresta che ma ascolta Coxo Spaziale. Ma è importante con Pino Boresta. Beh, certo, ma qua oh, cosa fa Pino Boresta? Come cosa fa? Fa il situazionista. Ah, basta. Bene. non lo so, un po' di Bach? Un po' di Bach? Ma no, ma no, andiamo all'arrembaggio. No, sì, dai, un po' di Bach. Ci abbiamo musica in sottofondo, Bach, jingle, io ci canto sopra, sacrale. Io faccio così. Perché Bach? Così, ce l'avevo lì. E la musica di sottofondo ci sta un po' abbandonando. Ma perché abbiamo finito il contenuto? Possiamo mettere... Ma io ci avrei quel branino con cui mi piacerebbe tanto salutarci. Ah, che ok, no, mettiamolo adesso che mi è più facile. Che è il secondo singolo che stanno lanciando per promuovere l'ultimo album che uscirà in, non mi ricordo se luglio o agosto, del mio gruppo preferito, che sono i soliti Dirty Projectors. Ah, cavoli, aspetta che me lo sta aprendo con un nuovo browser, per cui ci mette un attimo. E allora... è uscito su YouTube ieri ah, cavolo, ho pensato nuovo proprio. Oddio, è questo? Potrebbe, c'è il disegnino. Ah no, forse questa è la pubblicità che c'è su YouTube prima prima dei brani. No, invece è proprio lui. C'è è il disegnino? Lui. È lui col disegnino. E allora sentiamolo. That's a lifestyle, fantastico. Who stop wasting the lives of the brave based on one lie? We'll stop wasting the forests and seas. We know what will survive. Who'll stop wasting the time? Who'll stop putting quarters upon our eyes? Who'll not place himself higher than we for a senator's prize? We wander out wild eyed, kind of drunk and kind of high. We know what for and why. The monster eats its young till they're gone, gone, gone. And the rules are there to help, and that's the way it's done. Yeah, the monster eats its young till they're gone, gone, gone. Till it's satisfied and done, it won't blow, blow, blow. Who could look up from the numbers and say something ain't right? Who could disrupt the abundance and pray, not for weight but for light. How could we risk the empire as the apprentice descends into seasons of vital, when an old white Lincoln encrypted and high sputters down from the sky, red-eyed in July, weeping glycol. We shout out loud, megaphone, cut a sword, but listening in, we rouse our own episodes. The monster eats its young till they're gone, gone, gone, and the rules are there to hurt, and that's the way it's done. And the monster eats its young till they're gone, gone, gone, till it's satisfied and done. It wants blood. Bello, eh? Gran bello questo pezzo. Ma di un pochino quello che mi hai detto a Manuel fuori onda quando ti ho detto, ma carino, no? Ho detto, mosciocce, loro sono bravissimi. Che bello, eh? E a me da fan mi si florilegia, no, il quello cuore. Che avevamo fatto con Bjork era fantastico, quello lì, anzi, mi sa che l'ho messo su a Cox Spaziale quando tu non c'eri. Davvero, hai fatto questo? Sì, che sì, meraviglia. Sì. Hai visto? Ma, perché poi io mi sono dimenticato, ma questo weekend, così, perché sono bravi, no? A sincronizzarsi, inaugura anche Manifesta a Palermo. Pensavo parlassi di Dirty Projectors. No, sto parlando dell'arte contemporanea. Scusami, cioè, ma nello Manifesta. Stesso weekend di Art Basel inaugura adesso, Manifesta adesso a Palermo. Adesso ti faccio dimmi il figurone tutto. Proprio quello da Coxona che sono io. Sì. Ma non era Manifesta in Germania? Manifesta è la biennale europea che ogni due anni cambia posto, per cui io ho visto quella del Lussemburgo, quella di Lubiana, quella di non mi ricordo più, quella di Trento, però mi sono perso quella di in Spagna due volte. E adesso quest'anno poi la fanno da noi? A Palermo, cioè la stanno inaugurando stasera, mamma domani. Mamma mia, sei non a Palermo? Oso, non no. Oso immaginare. Che cosa? Il casino che avranno fatto per riuscire a realizzarla. No, vabbè, in realtà ognuno ci ha speso di suo, e la cosa incredibile è che su Facebook trovi un sacco di gente che naturalmente non era mai stata a Palermo prima, visto che non Manifesta non c'era mai stata prima a Palermo, che dice, oh ma Palermo è bellissima, scioccia. Beh, scioccia che si vede che è bellissima. No, ho capito, però voglio dire, cioè sei lì per la prima volta per la Manifesta e ti accorgi che Palermo è una città bellissima. Ma le due cose insieme devono essere ancora più spettacolari. Abbastanza. Chissà se avevo l'autoplay, sono io in autoplay questo, sì. No, no, sono io, ho tirato giù te che finiva ecco la traccia. Okay. Prima puoi, che partisse. Puoi ritirarmi su così se bene per caso voglio, che sgingolare. Ne so, scrivere così. Cifo, sei sveglio? Cifo. Ma perché si sente così piano così qualche volta? Però Cifo, giusto. Sei sveglio? Così è meglio, eh? Che voce gli hai messo? È nuova questa. Are you awake? Ah, senti in inglese. Giffo, are you awake? No, dice Giffo. Giffo. Giffo, are you awake? Yeah, that's no. Non lo so, sono questi stronzi di Google che ogni due giorni cambiano qualcosa. Ma mi dici le parolacce, certo, così come fosse niente. Ma sì, perché veramente, guarda, quelli... Non ti si può lasciare solo sette mesi Google mi sta venendo l'orticaria con Google. Cioè, sei praticamente legato a Google in un filo intercambiabile che non puoi più slegarti da Google. Una volta che hai un account di Gmail o un telefono che non è un iPhone, che naturalmente uno non può avere l'iPhone. Dai, si parlava di dipendenze, esatto. Cioè, respiri, devi nutrirti, sì, e devi stare, e allora anche devi con stare Google. Con Google. Cioè, effettivamente Google Maps funziona benissimo, ma anche Waze Google Translate funziona meglio. Google Translate funziona benissimo. Waze funziona meglio. Waze lo so, sì, no, so che le donne piace particolarmente. Sì, perché ti avvisa anche quando ci sono i controlli. Un sacco di roba ti dice. Ma, va bene. Ma Waze di chi è? Questo lo deve dire un uomo. Ah, ok. Ma tu lo sapevi che Fujiko, Radio Città Fujiko, cari amici di Radio Città, Radio Città Fujiko, una volta siamo venuto a te e sono Fujiko appena in testa. Lo sapevi che una volta a Torino ho incontrato Elio e Storia di Tesi, gli ho fatto dire sta cosa qua. Ma proprio Elio o qualche altro? E c'erano Elio, Elio, Rocco Tanica. Il meglio di Elio hai trovato? Il meglio di Elio. Grande. Così, sì, hai visto? Avrei dovuto farglielo fare anch'io quando li ho incontrati, effettivamente. Invece no. E invece l'altro giorno, la settimana scorsa, invece ho incontrato Lodo Guenfi, il cantante dello Stato Sociale. E il jingle? E non gliel'ho fatto fare. Ho pensato solo a mia figlia. Mi sono fatto selfie e basta. Per Yumi, cavolo. Yumi è totalmente innamorata di avere il papà che di Lodo Guenfi. Senti un attimo. Anziché stare qua a tergiversare. Ingolato. Beh, questo era altro. Questo invece mi mancava. Sì. Vabbè, è finita, sono i 58. Da te sono i 58, da me sono i 57, 59. Lo metti tu o lo metto io? Non dobbiamo aspettare le pubblicità. Ma ci sono? Sì, nelle 9 sì. Ma no, mettiamo un pezzo, scusa, salutiamo e mettiamo un pezzo. Ah, e poi metto le pubblicità. E poi partono le pubblicità. Ma ce l'hai tu o lo metto io? Le sono appena arrivate le pubblicità. No, lo metti tu. Allora, no, se sono arrivate le pubblicità, allora mettiamo le pubblicità. Lo metto io allora? lo metto io. Possiamo mettere, anzi, mettiamo Luciano Chessa? E salutiamo la Francesca Crispello. Sai che la Francesca Crispello di Synapse 44 mi manda un sacco di brani ogni settimana, e stavolta mi ha mandato il comunicato stampa di un libro e io gli ho risposto: mandami un MP3 che domani lo suono senza neanche leggerlo, capito? E dopo lei mi ha detto: però sarebbe un attimo un libro. Allora ho detto: vabbè, sì, ma cosa ogni pretendi? Tanto supero me stesso. Questa era Coxo Spaziale. Io sono ho messo su una foto fantastica. Stavolta invece ho cliccato una foto pensando di mettere su un pezzo. Allora, questo era Coxo Spaziale 124, fatto in live a grande sorpresa, e noi eravamo Stefano W. Pasquini e Fedra W. Boscaro. Sì, io ero con la sì. E queste sono le fantastiche megagalattiche pubblicità di Radio Città Fujiko delle 9. Per cui niente Luciano Chessa? Lo stavo cercando, l'ho perso. Niente. Alla prossima coxata. È stato bello. Ciao. Ciao. Dal 7 al 28 giugno, 4 giovedì di band live.